Cuore e denari di Nicoletta Carbone e Deborah Rosciani. Eccoci qua. Cioè, tutte finalmente. Due, contiamo. Una, due, ci siamo tutte e due oggi per la felicità dei nostri ascoltatori. C'è qualcuno che si è lamentato per la nostra assenza reciproca di questi giorni? Nessuno. No? Nessuno. Ma davvero? Allora dovete scriverci che siete felici che il duo sia ricomposto. Come non è? Nessuno? Magari cantando siamo la coppia più bella del mondo. Se no ve la cantiamo io e Deborah e sono dolori, Quindi ecco. Attenzione, candidatevi esatto. Subito. Però la gola è a posto. Nonostante i malanni di stagione, per cui magari, che ne so, potremmo anche fare delle belle sorprese canore ai nostri ascoltatori. Sì, partiamo subito con la trasmissione di oggi. Io segnalo solo che la borsa è positiva, Milano più 0,16% e che alle 11:20 abbiamo Investire Informati. E invece noi partiamo subito con la rassegna stampa di Cuore. Andiamo. Torniamo a parlare di morbillo perché sono arrivati a oltre 1000 i casi di morbillo in Italia dal 1 gennaio al 26 marzo 2017 contro i circa 844 registrati in tutto l'anno scorso. Allora, il dato è dell'ultimo bollettino dell'Istituto Superiore di Sanità, secondo cui nel 33% dei casi si è avuta almeno una complicanza, nel 41% un ricovero e nel 14% un accesso al pronto soccorso. Allora, noi abbiamo chiamato l'amico di Cuore Denari, un grande esperto che voi tutti conoscete, il professor Roberto Burioni, medico ordinario di microbiologia e virologia all'Università San Raffaele di Milano e autore del libro Il vaccino non è un'opinione. Buongiorno, professore. Buongiorno Nicoletta, buongiorno Deborah, è un piacere sentirvi, anche se la notizia non è positiva. Ecco, è vero, perché i casi di morbillo stanno aumentando. C'è chi parla di allarme, chi invece dice no, il morbillo c'è sempre stato, è una malattia che va a picchi, quindi di nuovo, no, se c'è sempre sotto il complotto. Professor Burioni, in un diamo paese un inquadramento. Tutti si vaccinano, in un paese dove tutti si vaccinano, dove tutti vaccinano i figli, i casi del morbillo sono zero. Quindi il fatto che ce ne siano anche 100 è qualcosa che non va bene. Il fatto che ce ne siano già stati 1010 mostra con chiarezza che la quantità di persone vaccinate non è sufficiente. E questo è un problema molto grave, perché il morbillo non è una malattia lieve. Togliamoci dalla testa questa falsità. In Italia, negli anni 60 e inizio anni 70, prima che arrivasse il vaccino, ogni anno morivano circa 200 bambini per questa malattia. Bambini che non sono qui a dirci io l'ho avuto e non mi è successo niente, come dicono molti. Io ho avuto il morbillo, non mi è successo niente, ma io da ragazzino giravo in Vespa col casco e non mi è successo niente, ma non mi sognerei mai dire che casco inutile. Infatti molti genitori pensano che il morbillo sia qualche, no, qualche macchiolina rossa, un po' di febbre. L'abbiamo fatto tutto, siamo tutti diventati grandi. Professore, questo è un po'... Sì, perché quelli morti hanno avuto qualche difficoltà a diventare grandi. Ecco. Allora, un altro dato, professor Burioni, riguarda l'età media dei pazienti, che è circa di 27 anni, con il 57% dei casi che si è verificato nella fascia 15-39 anni, e solamente una bassa percentuale si è avuta invece nei bambini al di sotto di un anno, ancora troppo piccoli tra l'altro per il vaccino. Beh, insomma, sono stati 50 casi nei bambini sotto un anno, bambini che erano troppo piccoli per essere vaccinati, e sono casi particolarmente preoccupanti perché il morbillo contratto sotto un anno causa molto più spesso delle complicazioni molto gravi, tra i quali un'encefalite che può addirittura venire fuori dopo molti anni. Ma il motivo per cui l'età media si è alzata è perché in un paese che è parzialmente vaccinato il virus circola di meno. Quindi, quando non esistevano i vaccini, il virus circolava negli asili. Chi ha il morbillo è contagioso già due giorni prima di avere i sintomi. Quindi si immagina, il bambino sta bene, va all'asilo e trasmette la malattia a tutti. E c'erano però quei 200 morti, quindi non era una situazione ottimale. Col vaccino, se non si vaccinano tutti, il virus circola di meno e quindi si può arrivare a un'età adulta senza averlo contratto. E contrarre il morbillo nell'età adulta, purtroppo anche in questo caso, corrisponde a complicazioni più frequenti, più gravi, non di rado significano danni permanenti. Quindi è necessario che tutti quelli che non si sono vaccinati o tutti quelli che non sono certi di aver avuto il morbillo si vaccinino il prima possibile, perché sono veramente a rischio di contrarre una malattia seria. Professor Burioni, naturalmente tutte le volte che parliamo di vaccino arrivano i messaggi, gli sms, gli ascoltatori, gliene riassumo, sono 3 o 4 che sono arrivati, il tono, e il tono è molto simile, mi vaccinerò quando ci sarà un medico che mi firmerà una dichiarazione che il vaccino non ha effetti collaterali. Professor Burioni, siamo sempre qui. Sarebbe come che io pretendessi, quando vado in una concessionaria, che chi mi vende l'automobile mi firmasse una dichiarazione che non farò mai un incidente con quell'automobile. Non è possibile, cioè i farmaci hanno effetti collaterali. Quello che il medico le può dire, le può firmare, è che gli effetti collaterali gravi del vaccino contro il morbillo si verificano, nella peggiore delle ipotesi, in un caso su 2 milioni. Invece la malattia ha complicazioni gravi, spesso con esiti permanenti, in un caso su 1000, quindi da una parte un caso ogni 2 milioni, dall'altra un caso 1000. È chiaro che il rapporto rischio-beneficio è estremamente favorevole. Io immagino che qualcuno sia magari potuto anche morire perché aveva il casco in motocicletta, però in generale il casco ci salva la vita, quindi è un ragionamento che non sta in piedi. Allora, Rossella ci scrive: mio figlio ha avuto febbre a 40, dissenteria e disturbi di vario tipo dopo il morbillo parotite rosolia. Perché non somministrare ai bambini i vaccini singolarmente invece di iniettare 3 o in alcuni casi 6 virus tutti insieme? Questa è la domanda di Rossella, è anche una domanda che viene spesso riproposta quando si parla del calendario delle vaccinazioni, che per alcuni deve essere un po' ripensato, anche in considerazione dei bambini che sono troppo piccoli magari per ricevere tutte queste vaccinazioni tutte insieme. Professore, sto raccogliendo un po' le domande degli ascoltatori che stanno arrivando. Una domanda si deve basare su qualcosa di scientifico, non è che un genitore può chiedere facciamo vaccinare dai medici del segno del Sagittario perché funziona meglio, perché non è vero. Ecco, in questo caso i 6 vaccini somministrati insieme con l'esavalente non sono virus, sono sostanze inerti, e la pratica è sicurissima, e la pratica è estremamente efficace, non può essere ritardata, perché nel vaccino esavalente ci sono dei vaccini che proteggono il bambino contro delle malattie come la pertosse o la infezione da emofilo, che sono gravissime nei primi mesi di vita, nei primi 2 anni, quindi dobbiamo proteggerlo il prima possibile. Il vaccino esavalente è sicurissimo, gli effetti collaterali sono praticamente inesistenti, almeno quelli gravi, ecco. E per quanto riguarda invece il vaccino contro il morbillo e contro la parotite, contro la rosolia, anche in questo caso l'unire questi 3 vaccini è qualcosa di assolutamente sicuro e assolutamente efficace. Non fosse altro perché se noi dovessimo fare l'esavalente separandola, invece di fare 3 iniezioni, dovremmo fare 18 iniezioni ai bambini. Io sinceramente vedo mia figlia cosa fa quando gliene devono fare una, all'idea di farlene 18. Allora, se ha un senso, si fa. Siccome il senso non ce l'ha, fare 18 punture invece di 3 sarebbe una crudeltà inutile nei confronti dei bambini. Invece Giuseppe è un adulto e ci scrive: se non si sa se abbiamo avuto il morbillo, siamo adulti, che cosa possiamo e dobbiamo fare? Professor Burioni, le domande stanno arrivando, ma intanto dico ai nostri amici che il professor Burioni vi risponderà sulla nostra pagina Facebook dalle 13.30 alle 14.30, proprio per dare a modo a tutti voi di ricevere una risposta ai vostri dubbi. Professore, per chi il morbillo non l'ha fatto, non sa se di averlo fatto, è grande. Non c'è alcuna difficoltà, deve andare dal proprio medico, basta un esame del sangue per capire se si è immuni o non si è immuni. Bisogna fare un esame del sangue perché talvolta il morbillo magari uno l'ha contratto e non è stato diagnosticato. Quindi basta un esame del sangue. Se risulta che non è immune, si deve vaccinare col vaccino e in tutta sicurezza, e anche se uno è immune per esempio a parotite e rosolia ma non è immune al morbillo, può tranquillamente usare il vaccino trivalente perché non costituisce alcun problema. Grazie professor Burioni. Grazie. Allora, appuntamento sulla nostra pagina Facebook dalle 13.30 alle 14.30. professore, grazie. Sì, grazie Deborah, grazie Nicoletta, buona giornata. Buona giornata. Noi andiamo a sentire che cosa succede sulle strade e sulle autostrade e continuiamo la nostra rassegna stampa. A tra poco. Faircam Transport, puntuale ed efficiente nel rispetto dell'ambiente. Scopri di più su faircam.com. Vi presenta Cuore e Denari. E siamo tornati insieme, il 2 si è ricomposto, stiamo sì, passando in rassegna le notizie della rassegna stampa di Cuore con la notizia che vi propongo in questa seconda parte, trova ampio spazio sui giornali e riguarda il via libera ai farmaci contro l'epatite C importati dall'estero. In linea con noi il dottor Stefano Fagioli, direttore di gastroenterologia degli ospedali riuniti di Bergamo, e Ivan Gardini, presidente di EPAC. Buongiorno a tutte e due. Buongiorno. Vedi che bello, tutte e due in coro. Un duo. Allora, dottor Fagioli, partiamo da lei con il parere il punto di vista del clinico e poi passiamo a Ivan Gardini. Sì, io vorrei chiarire un punto sull'epatite C. Ci fa un piccolo riepilogo per riassunto, esatto, perché magari esatto. La notizia è sempre presente sui giornali, oggi guadagna proprio paginate, ma ecco, riepilogo delle puntate precedenti con sintesi. Allora, rapidamente, da alcuni anni sono disposti dei farmaci che consentono una risposta quasi assoluta e quello che è successo in questo paio d'anni è che le urgenze epatologiche, cioè i pazienti con cirrosi o con rischio di sviluppare una cirrosi, hanno tutti avuto una risposta come possibilità di accesso alle cure. Quello che è cambiato è che adesso sono proposte delle cure che potranno progressivamente coinvolgere tutti i pazienti, anche quelli che non hanno un rischio immediato di malattia. Il problema che si poneva prima e che si pone e resta anche adesso è che questo fa fatica a dare una risposta ad un problema abbastanza comprensibile, cioè che l'ansia causata dallo stigma sociale che si porta dietro l'infezione da HCV. E ora, anche se l'informazione è che potremo nel futuro trattare progressivamente tutti, è chiaro che questo andrà fatto con gradualità per una questione di numeri e tutti non possono immediatamente accedere alle cure. Ecco che questa nuova circolare, che in qualche modo apre o rende meno complesso potersi rivolgere all'estero per comprare i farmaci, di fatto si rivolge a quei pazienti che questo stato di ansia nel rapporto con il loro medico non riescono a dominarlo e in qualche modo hanno bisogno di far fronte a un'esigenza. Mm. Quindi non ci saranno più quei casi di farmaci fermati alla dogana, avevamo letto? Ma è successo ovviamente che chi è andato all'estero è incorso nelle regole di importazione che sostanzialmente, se applicate in maniera rigida, portavano al blocco di questi farmaci in dogana. In realtà, quando poi la cosa è stata portata davanti a dei giudici, tutte le sentenze si sono rivolte a favore di chi importava il farmaco per un ovvio uso personale e quindi si trattava di un impasse burocratico che era giusto risolvere, e si conferma che insomma il Ministero della Salute in Italia in ambito di epatite C ha lavorato bene e mi sembra che stia continuando a lavorare bene. Quindi, dottor Fagioli, lei è soddisfatto? Come lo vede questa via libera? Come un passo in avanti? Come una facilitazione per le persone affette da epatite C? Allora, premesso che io sono uno di quelli che praticamente non ha mandato nessun paziente all'estero a prendere i farmaci e continuerò a lavorare perché questo non succeda, sì, perché vuol dire che devo impegnarmi un po' di più nel rapporto con ogni singolo paziente per garantirgli la serenità di cui ha bisogno. Detto questo, le motivazioni per decidere di farlo immediatamente, non aspettare, sono talmente personali e talmente ampie che credo che sia un modello di libertà personale, se uno lo vuole fare, poterlo fare seguendo delle regole, il Ministero le ha date, con un modello che non costringa le persone a viaggiare al limite, certo, dell'illegalità. Quindi lo trovo un modello di libertà ragionevole, fatto salvo, ripeto, che io lavorerò ancora di più di prima per impedire che il paziente sia costretto a, assolutamente, preso dall'ansia, a rivolgersi altrove, all'estero. Ivan Gardini, allora, voi siete soddisfatti? Sentiamo il punto di vista dei pazienti. Allora, diciamo questo, che in linea generale questo è un tipo di chiarimento che avevamo già chiesto molti mesi fa, perché noi avevamo a che fare tutti i giorni con persone che andavano all'estero, e quindi ben venga, come dire, questo chiarimento sull'interpretazione di una norma specifica della legge 96. Il punto è questo, che noi una settimana fa abbiamo fatto una conferenza stampa in AIFA in cui il direttore generale ha dichiarato che saranno rimosse tutte le limitazioni di accesso. Quindi sì, siccome questa, diciamo, questa circolare verte sul fatto che in mancanza di una valida alternativa terapeutica, quindi se noi rimuoviamo tutti, come dire, tutti le barriere, tutte le barriere di accesso, questa circolare non dovrebbe trovare applicazione, perché un medico mi deve spiegare come fa a fare, come dire, a compilare questi moduli se il paziente può accedere, come dire, alle terapie in Italia. Questo, diciamo, è il primo dubbio che ci sorge. Poi ci sono diversi altri dubbi. Ad esempio, lei parla di medico. Il medico di famiglia può prescrivere sta roba qua, perché lì parla di medico curante. Ecco, cioè, il medico curante non sappiamo, non è chiaro a quale figura faccia riferimento, al medico di medicina generale, all'epatologo, al medico del paese. Dove autorizzare dei centri e altri no. Cioè, ci sono degli aspetti operativi della faccenda che ovviamente adesso noi chiederemo spiegazioni all'Agenzia del Farmaco prima di dare un giudizio, diciamo, definitivo. Però dal mio punto di vista, se devo stare a quello che ha detto il direttore dell'Agenzia del Farmaco, questa direttiva non trova applicazione per i pazienti con epatite C, anche perché sennò sarebbe come dire: se io mi compro il farmaco all'estero vengo curato prima. Ma che senso ha questa cosa? Allora, dubbi, quindi una serie di domande da porre all'AIFA. Ivan Gardini le sta scrivendo, alcune ce le ha condivise con noi, immagino. È molto lunga questa lista di domande, Ivan? Sì, abbastanza. Direi che quindi ci sarà da lavorare. Dottor Fagioli, lei che cosa ne pensa? Ma io credo che ovviamente tutte le circolari e tutte le note vanno interpretate. Io non ho nessun dubbio che quando si parla di medico curante non ci si può non riferire a chi è attualmente autorizzato formalmente alla prescrizione e all'erogazione di questi farmaci. Quella è la categoria di medici a cui si rivolge questa circolare. Certamente io non la leggo come qualunque laureato in medicina può prendere questo modello e fare la domanda, quindi resta vincolata a questo. Quanto al chi può beneficiarne perché in qualche modo ne vede limitato l'accesso, credo che anche qui l'interpretazione possa essere molto pragmatica. Se noi abbiamo 300.000 persone da trattare, dico un numero che potrebbe essere ragionevole, è chiaro che qualcuno verrà trattato lunedì prossimo e qualcuno fra 3 anni o 4 anni, fatta salva la sicurezza della condizione clinica del paziente. Quindi un paziente che in qualche modo ha solo l'infezione ma non ha una malattia e che non rischia nulla nei prossimi 3 anni, potrebbe dire: io non me la sento di aspettare 3 anni, il mio accesso alle cure è limitato e quindi mi avvalgo di questa opzione. Io questa circolare la leggo con queste due modalità. E ripeto, molto sarà in capo alla capacità del rapporto medico-paziente di costruire una condizione di serenità. Insisto che noi dobbiamo fare bene il nostro mestiere, non importa quante pastiglie abbiamo a disposizione. Ivan, un minuto per completare o controbattere o lasciare magari un messaggio. Ivan, non controbattiamo mai, no. La pensiamo allo stesso modo da 20 anni. Sì, e allora che gusto c'è invitarvi insieme? Ivan Gardini. No, ma è solo per il fatto che, ad esempio, ieri sera in un servizio televisivo hanno detto che anche il medico di famiglia può, cioè, insomma, la divulgazione di informazioni deve essere, come dire, chiara, precisa e netta, e noi prima di, come dire, dare un giudizio ovviamente dobbiamo capire veramente come stanno le cose. E anche perché, ripeto, sia io che il direttore generale dell'Agenzia del Farmaco abbiamo detto: con questa, diciamo, con questa novità di rimuovere tutte, a questo punto non c'è più bisogno per i pazienti di andare all'estero, come dire, a per comprare cercare i farmaci generici. Ivan, adesso cambia tutto. Cambia tutto, e noi naturalmente vi terremo aggiornate con il dottor Fagioli e Ivan Gardini, che inviteremo per raccontarci la seconda puntata. Grazie a tutte e due al GR. State ascoltando un programma offerto da... Grazie alle soluzioni per l'isolamento acustico, da sempre Comfort e Saint-Gobain. Cuore e denari. Eccoci di nuovo insieme. Intanto grazie, grazie mille per i messaggi che cosa dicono ci i mandate amici sul duo, che siamo contenti che siete ritornati. Anche qualcuno che invece non è contento proprio di noi, ma noi lo salutiamo ugualmente. D'altra vabbè, parte sai, non si può piacere a tutti, no, l'importante no è piacere ai migliori. A tanti. Allora, riprendiamo con uno studio tutto italiano che si è concentrato su una molecola che si attiva durante l'esercizio fisico e che, se ricordate, di cui noi avevamo già parlato, e bene, questa molecola sembra in grado di svolgere funzioni molto interessanti che, guarda caso, hanno a che fare con quella situazione di benessere generale che si riscontra in chi pratica sport. Intanto salutiamo il dottor Stefano Benedini, ricercatore confermato in endocrinologia, afferente al Dipartimento di Scienze Biomediche per la Salute dell'Università degli Studi di Milano, Policlinico San Donato, che ha coordinato la ricerca. Buongiorno. Buongiorno alle conduttrici e agli ascoltatori. Dottor Benedini, sì, si chiama irisina e viene prodotta dal muscolo scheletrico durante l'esercizio fisico. Ma è da qualche anno che questa molecola cattura l'interesse dei ricercatori. Ci vuole spiegare che cosa ha di interessante e che cosa soprattutto avete scoperto? Sì, questa molecola è stata scoperta nel 2012, quindi abbastanza recentemente. È una new entry. Sì, oltretutto studi sull'uomo sono stati condotti in maniera decisamente inferiore rispetto al modello animale o sulle singole cellule, e quindi uno studio come il nostro, in cui si è andati ad indagare su soggetti che svolgono un'attività fisica intensa i dosaggi di questo ormone, è una novità assoluta. Ecco, e infatti la portiamo a cuore denari e diciamo anche che siete stati bravi, quindi abbiamo dei dati sull'uomo. Sì, dei dati sull'uomo, in particolare su soggetti che svolgono attività fisica in maniera agonistica a livello nazionale e internazionale, che quindi possiamo definire un po' soggetti ipersportivi, cioè con un'attività fisica decisamente superiore alla media della popolazione, e abbiamo riscontrato dei valori di resina correlati, diciamo, allo stato di benessere decisamente superiori nei soggetti che facevano più attività fisica rispetto ai soggetti sedentari. Quindi però non è necessario essere atleti per produrre l'irisina. No, c'è una gradazione, proprio abbiamo visto nello studio condotto che i soggetti sedentari hanno dei valori più bassi di questo benessere che si riscontra nei soggetti che appunto invece fanno più attività fisica, con diverse gradazioni dai soggetti sedentari ai soggetti che fanno un'attività fisica amatoriale, ai soggetti che fanno attività, diciamo, semi-agonistica, e quelli che invece sono proprio degli agonisti. Ecco, studiando l'irisina voi potete capire i meccanismi responsabili non solo dell'effetto salutare dell'attività fisica sul benessere generale, ma soprattutto sul metabolismo, e da questo punto di vista si aprono prospettive molto interessanti, tant'è che, dottor Benedini, non so se questo le faccia piacere o no, è già stata soprannominata la molecola bruciagrassi. Eccola. Oppure lo sport in pillole, come a dire che insomma, attivando questa molecola in qualche modo si mimano gli effetti dell'attività sportiva e quindi si vanno anche a ridurre quei depositi di grasso che non solo non ci piacciono ma non ci fanno neanche stare bene. Nell'animale è stato molto ben studiato la capacità dell'irisina di attivare il cosiddetto grasso bruno, cioè un tipo di tessuto adiposo che tende a bruciare decisamente di più del tessuto adiposo normale. Sì. Per cui l'irisina ha un'attività di aumento del metabolismo, cioè quindi dell'utilizzazione dei substrati, cioè di tutti gli alimenti che noi introduciamo con la dieta. Per cui cioè, questa molecola apre diversi spiragli sul un possibile utilizzo di sostanze che mimano l'azione dell'irisina per andare a sopperire ai deficit di attività fisica, anche se ad oggi non abbiamo ancora un tipo di farmaco del genere. E però per cui ecco, direi che dobbiamo... a tutti quelli che si stanno un po' sfregando le mani, finalmente l'hanno trovata, ecco, pur arrivando ad una formulazione di un prodotto, quindi di una pillola, sì, la cosa ecco, che non ad è la scorciatoia. A disposizione è proprio l'attività fisica come strumento per far aumentare questo ormone che è l'irisina, cioè all'attività fisica di tipo aerobico, che sembra quella che più stimola la produzione di questo ormone, l'attività fisica di tipo aerobico che cioè, parliamo di dalla semplice camminata a passo veloce al jogging, alla bicicletta, alla cyclette che si può fare anche a casa, al nuoto, allo sci di fondo, al insomma, pattinaggio. L'offerta è ampia e variegata per irisinarsi. Irisiniamoci sì. Allora, dottor Benedini, intanto la ringrazio per essere stato con noi e anche complimenti perché è uno studio di tutto rispetto e di alto profilo, la ricerca italiana brilla. Grazie dottor Benedini. Salve, buonissima giornata, quindi vedi che non bisogna risparmiare le forze. Ti piace questo assist? Hai un barattolo di risina per noi? No, bisogna per ridurre magari quei depositini di grasso di cui parlavi poco fa. Vedi, invece noi parliamo di risparmio. Già partiamo, partiamo sì, subito così. Ti ho lasciato, volevo, so che ci sono delle anticipazioni che vogliamo dare sul Salone del Risparmio, che ci vedrà fianco a fianco. Allora, io faccio da valletta. No, ma che valletta, tu sei attiva protagonista, mi metto un vestitino grande, con le maniche a sbuffo come quelle che aveva azzurro. Anna dai capelli rossi. Allora, economia reale, previdenza complementare, la MiFID 2, la direttiva che disciplina i mercati finanziari, piani individuali di risparmio, sono i quattro punti caldi in agenda dell'imminente nuova edizione del Salone del Risparmio, un programma da l'11 al 13 aprile a Milano. Ci saremo, lo diceva poco fa anche Nicoletta, noi di Radio 24, sicuramente io e Nicoletta ci siamo, con Cuore e Denari, con il nostro programma in diretta dal MICO di Milano. Negli ultimi anni il Salone, lo ricorderete perché ovviamente ne abbiamo parlato moltissimo, si è concentrato sulle questioni legate all'educazione finanziaria, che comunque anche quest'anno avranno un buon spazio. Quest'anno però nello specifico si ritorna su questioni normative, su tematiche economiche di più larga scala. Però il piccolo risparmiatore naturalmente non viene dimenticato, la famiglia, e allora noi ci chiediamo oggi su che cosa si interrogano le famiglie italiane quando pensano alla loro propensione al risparmio. Risparmiate, ve lo chiedo direttamente, in maniera diversa rispetto al passato, rispetto magari agli standard educativi che vi hanno trasmesso le vostre famiglie? Raccontatecelo all'800 24 00 24, noi da questo partiamo con la nostra rubrica del giovedì. Investire informati. Allora, lo diciamo subito, così oggi i nostri ascoltatori non hanno scuse. Siamo in diretta live su Facebook. Salutiamo tutti quanti dalla nostra telecamerina, perché abbiamo notato appunto che non appena informiamo i nostri ascoltatori di questa novità, che peraltro è molto così, insomma, che sulla quale stiamo insistendo da un po' di puntate, subito vanno a vedere se siamo ben truccate, se siamo a posto, se siamo in ordine. È sicuramente molto in ordine il nostro ospite di oggi, Fabio Galli. Facciamolo vedere bene. Direttore generale di Assogestioni, ben ritrovato. Buongiorno a tutti. Ormai ogni anno ci ritroviamo qua fissi alla vigilia del nostro salone, del vostro salone naturalmente. Adesso andremo a raccontare tutte le novità di quest'anno. Prima di partire però volevo, siccome è un tema che abbiamo seguito costantemente per i nostri ascoltatori, volevo dare le novità sul tema dell'offerta di transazione che era stata proposta appunto nelle scorse settimane agli azionisti di Popolare di Vicenza e Veneto Banca. L'offerta si è conclusa due giorni fa, non ha raggiunto l'obiettivo dell'80% che si erano prefissate le due banche, perché nel caso di Veneto Banca le adesioni all'offerta di transazione sono arrivate a circa il 73% del totale, per quello che riguarda appunto Banca Popolare di Vicenza sono state invece circa il 71,9% del totale. Questa è la novità. I board appunto delle banche sono orientate adesso a rinunciare alle condizioni sospensive dell'80%, avevano detto se raggiungiamo questa soglia andiamo avanti naturalmente con l'operazione di riconoscimento di questo indennizzo agli ex azionisti appunto, altrimenti no. E invece